tenerla anche adesso, non ho problemi. No, ci devo pensare, dai, non è una cosa semplice. No, già ne ho altri, non è un problema quello lì, però sono affezionato a questo. Anch'io ero affezionato, ecco perché la sono cercata. A te c'è qualcuno, avanti, chi c'è? Sento sempre queste portantine, avanti che vuole entrare. Ma mi copre. Ha dato un colpettino quando stavi parlando, un po' più forte di te, non so se l'ha fatto per sbaglio. Vabbè, pazienza, dai, tanto era un secondino, non ti ha dato nessun problema. Ok, quindi ne hai diversi di apparati ancora, Vito? Ne ho, sì, non li uso mai, saranno, ecco, perché ho paura che quando li tieni fermi così poi si rovinano. Cosa vuoi fare? Purtroppo non posso stare lì, non ho tempo di accendere, fare, collegare, cose, non ho tempo e sono lì, però non mi interessa, dai, non è un problema. Però, vedi, mi sto facendo cerchiette di acquistarlo, io non lo voglio dare perché darlo significa regalarlo. Brecchi, ben controllo. Lo sento, lì. Brecchi? Ah, scusa, avanti, Brecchi. Ciao Roberto Marino, ciao Roberto, ciao Torino, ciao anche Vittorio. Roberto, 9:15, Mario. Come si chiama? Torino, Santiago 9, l'amico Vittorio, Santiago 7, qui a Ottava. Ok Vittorio, domani mattina verso le 9 passo col camion e carichiamo tutti qui a fare chi sai. Ok Torino, riprendi e io chiudo e sopra un saluto. Avanti Torino. Ok, faccio a Marì, ben entrato, salutoni, ci sentiamo. Ma non eri tu Tony che non è me, cioè come si chiama? E Marie che non sta uscendo, sentivo questi colpetti di Mike. Un attimino mi sento all'acqua. Aspetta, ha parlato, sì. Cosa hai letto Marie? No, non ero io sono appena entrato, ero solo in ascolto, poc'anzi, ho dato parecchio e perché sono gente, posso entrare tutto qua. Solo per un saluto Roberto, vai tranquillo. Ok, Roberto, riprendi, io chiudo perché c'ho gente, non posso entrare. Avanti Roberto. Ok, buon tutto, dai, buon proseguo di serata. Marino, vai Tonino per i saluti. Mi assento un attimo. Oh, Roberto. Dimmi qua. Confermato per domani. Eia, però passa un attimo sul 12, dai qua. Eia. Scusate un attimo. Ok Marino, dai. Ma anche loro vanno sempre per il tutto giorno, dai. Un attimo Vito, Santiago sempre 9 o Tony, sempre 9, sia con la d'apparecchio sia con quello che ha detto tu poc'anzi, tutto qua. Bene, lancio il micro all'amico Vittorio, sempre se mi sta ascoltando. Ok, avanti Vittorio, io chiudo perché c'ho gente qua vicino e devo solo c'è qualcosa, avanti. Vittorio ci ha sentato un attimino. No, Roberto si è sentato, se non sbaglio, è come il tuo canale. Anche Vittorio con un attimino mi ha sentito. Sulla corrente. Sei qua, a cuccia! Con quel coso. Vabbè Mari, buonasera a tutti, Tipo così, non so più. Fiorellino, scusa, io, siccome sono gente qua, sono da sopra per salutare. Qui c'è l'amico Torino, poi c'è l'amico Roberto, che è un attimino allontanato. E c'è l'amico Vittorio, non so se zona canica, se non mi sbaglio, Zona canica. Ok, avanti Antonio. Capo, dai, buonasera a tutti, dai. Sono appena rientrato a casa. Capo, dai. Capo, saluta tutti in generale. Saluta tutti in generale. Bello per il panzer, tu. Così, oggi. Bene, ha lavorato oggi. Oggi mani fatto travagliacca. Dopo si è barrata pure una macchina. Per carità, quando succede anche a me oggi un casotto col camion, un casotto, siamo alla sonda, non facevo contatto con la cellula a scaricare un casotto. E vabbè, sono cose che succedono, dai. Bene, intanto io lascio il micro da Torino perché non ascolto, sto per un saluto, sono tratto e basta, tutto qua. Avanti Tony. Mi ero sensato, sono in cucina la signora, porta via, tutto qua. Che apparecchio stai utilizzando Tony? Posso vedere? Metto il cicito, sono dei tanti. 1068S. Ok, lo già. Lo conosco, va bene. Vediamo se l'amico Vittorio mi ascolta. Vittorio? Ok, sono rientrato, dai, no, avevo fatto. mandato un segnale, ma forse non mi avete copiato. Non mi sono sentato un timido per fare un po' d'acqua. Tutto qua. E niente, non ho sentito poi la. Adesso l'ho accesso. L'ho sentito adesso in questo momento. Non so chi è il sabato là. Scusi. Capa, saluto un Vittorio, ma sei sempre il Vittorio che conoscevo sempre, sì. Sì, e tu chi sei? Quello di me. Antonio sono, il bombolo. Ciao Antonio, io ti ho riconosciuto adesso, bombolo, sì. Sì, sono sempre io. Capa, ti ricordi che un giorno ci siamo visti? Che stai mettendo a posto al magazzino? Capa, sì, mi ricordo, come no. Dai, non c'è problema. Ma c'è un altro modulante però, che non mi ricordo adesso. Marino d'Ottavo, Vittorio, Marino d'Ottavo, mi stai arrivando Santiago di 7, radio 4, perfetto, ok. Benissimo, riprendi, Tony, io chiudo perché c'ho gente, non posso lasciarla come gli altri, lo sai, no? Ci sentiamo, avanti Torino, per me QRT, ciao Antonio, ciao Vittorio, c'è anche gli ascoltori, per me QRT, Torino riprendi. Capo, dai, io chiudo che devo andare a mangiare, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ciao Mari, ci sentiamo alle prossime, bella modulazione, comunque basta, perché purtroppo siamo distanti, tutto qua. Oh, non so, da Bombolo ti saluto lo stesso, se stai andando via, mi sembra, e niente, chi c'è rimasto? Roberto. Capa, no, sono andati nell'altro canale perché dovevano dire delle cose. Capa, dai, io ti lascio, ti devo lasciare, ti devo. Come ti arrivo da quella parte di segnale? Sei un bel 8:30, quasi 9 al momento. Capa, già va bene, dai, già va bene. Un po' di più, ora. Cioè, insomma, un po' meglio, perché già voi fatti in che zona sei? Beh, zona Prato Comunale più o meno, dai, zona Monte Rombassa. Capa, no, qua tu sei Santiago, no, per Radio 5, è una bomba. Ok, bombole, dai, non c'è problema. Ma chi è andato via? È andato via Marino? Capa, Marino. Cioè, 9:10, 9:10, per l'esattezza proprio, mi te lo spaccate, 9:10 spaccati, sì. A voglia che va bene, non so se sei in zona bassa o in zona alta, però qua arrivi forte. Beh, in linea d'aria siamo vicini, certo. Capa, io non modulo più dal QTH della Tedolce. Ah, ecco, ti sei spostato. Capa. E quindi ti sei avvicinato verso questa zona? No, io abito a Sassa di Vecchio. Ma il lavoro ce l'hai dove? Ah, il lavoro è sempre là via Milano, già lo sai. E ho capito, su in alto? No, è proprio in fronte alla rotatoria, nei costi di bombole. E dove c'aveva la... dove c'aveva il coso Vignucchi? Capa, lì dentro. Sì, già ci conosciamo, e a voi? Conosco a tutti, conosco anche i tuoi fratelli, conosco a te, a tutti. E quindi stai sempre facendo questo lavoro, ma il lavoro già ne hai, sì, sai sempre. Alti e bassi. E quant'è adesso la bombola a proposito? Perché io la sto prendendo vicino a casa, ma non mi piace nulla. Quanto la paghi? 32. Un po' di più viene da 15. Ma la promozione non l'ho fatta perché io ne devo prendere 4 per farmi quel prezzo. Ah, così è. Pure noi c'è qualche cosettina, già scendiamo. Allora io ne prendo 4 e me ne danno una in omaggio. Addirittura. Sì, una in omaggio, 4 in omaggio, una promozione che c'è, adesso non so se c'è ancora, ma da quando ho aumentato, l'ultima le ho prese 2 settimane fa, ne ho preso 4 e una in omaggio, 5 praticamente. No, noi non possiamo farlo, perché l'azienda non ci fa questa agevolazione qua. Anni fa lo facevamo quando eravamo con Ultragas. Questi qui sono a Serra Secca, chi è questo? Ruggiu. No, non sono a Serra Secca. No. Allora, uno è a Serra Secca, poi intanto sono di Sorso, poi uno è a ottava e a Serra Secca. No, ne hanno uno di quella zona, ce l'hanno al monte l'altro. E allora si sono trasferiti, non lo so, però una volta erano vicino all'Eurospin lì, dopo la GBC salendo lì in, su a sinistra. Non so se ci sono ancora io. Erano lì, era Torrado Vigi, erano erano lì, come si dice, no, lì non lo so, c'è di vicino, dopo salendo, anziché svoltare alla piazza dei segni, salivi ancora un pochettino più su a sinistra, di fronte al distributore, lì erano, però ce l'hanno anche a ottavo. Vabbè, io chiudo, se qua in ascolto, ciao Antonio, ciao anche a Vittorio, io sto chiudendo sul 12, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte. Sì, già li conosco, c'è chi sono. Ok, dai, buonanotte, ciao, ciao. Io vado, dai, vado a lavarmi che sono già in ritardo, ciao, ciao. Allora, sono rientrato anch'io per salutare, c'è portante comunque qua, molto forte, 9 più 30. 9 e 15, l'ottava. Vabbè, ho vero tanto. Vabbè, qua era 9 e 10, dai. Ci sentiamo allora domani mattina o vabbè, ok, io 9 e mezza esco di casa, dai, già sono vicino. Ci vediamo in officina. Ciao Antonio e ciao Vittorio, ciao Roberto, ci sentiamo, ciao ciao. Io ciao ciao ciao, anche io chiudo, dai, saluto tutti quelli che sono ascolto, Vittorio, Antonio, Tonino, chi c'è altri, non lo so, perché sono da mangiare, magari se dopo ne ho voglia riattacco se c'è qualcuno. Buon proseguo di corso a tutti quanti, dai, ciao ciao. Ciao anche a Tonino. Dimenticato, ciao ciao. Appa gappa, dai, facciamo i bravi qua. C'è importante, c'è, dai, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, dai, perché non stare lì a fare molti complimenti. E comunque non ti sei imbagliato, Anto. Non venuto da là. Non venuto da là, no. Va pure, ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. Sì, così però. Cosa vuoi fare? Ah, io lo passo questa portante. Ora. Sì, già t'ho scappato. Non c'è per le passi, perché? Sì, adesso sì, anche poco fa no. Eia. Ho detto non giocare con me. Muse voce. Ciao Cristian. Ciao. Ciao Cri. Ciao a tutti, buonasera. Dove sei Cri? In giro a Sacro Cuore, perché? C'era una che stava provocando e allora ha acceso il bambino. Che lui cadde appena appena, vedi. E l'ho sentito infatti. Appa. No, ma non si è agganciato anche già qua, si è agganciato, no? Ehi, ciao, vedi? Migliorato là, Claudio! Ehi, la manettone si è adesso. Pensa come mi sente Cristian che ha carbonato, vai, a Sacro Cuore. La potenza che gli sta arrivando. Ma fammi spiegare, caro. E cos'è? Lo smitter di ciò che muggende. Questo smitter è molto generoso con tutti, eh. Sì. Ah, ma come arrivo adesso da quelle parti, oh, Vittorio? A bombola. quando mi provocano divento cattivo, eh. Stai crepando il mio smise. Ma quanto sto arrivando in quella zona? 9.30, sì. Vai in ora buona, vai. Cappa, è meglio non giocare con me. Dica, dice la portante, tu. La portante, lui crede di mettermi la portante, ma qua... Quando scattano le valvoline... L'ho mettato, è tranquillo. Quando scattano le valvoline, oioia. Ciao, ciao. Ciao, Cris, salutami Antonio, ce lo vedi. Ciao, Vittorio, di nuovo, dai. Chiudo che è pronta la cena. Perché, dai, non è ciambato nulla. Lascia perdere, cra. Allora, già ho capito. capito, adesso sì, adesso già ho capito, avevi ragione. Kappa, dai là che vado a mangiare. Ma qui non è che la portata, vado a mangiare, va. Vado a mangiare, ci sentiamo. Perché, buona carica, dai, ce la chiari. Oh!